12:20. Vento. Eccezionalmente informazione completa, oggi in onda Maldestra, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Mi sto strappando dalla terra e dal cielo per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano. E prima che riusciamo a concludere introduzione ormai consueta della nostra trasmissione, abbiamo già in linea il primo collegamento, se è in ascolto. Pronto? Sì, sono in ascolto. Buongiorno. Abbiamo in diretta Matteo Tacconi, un attento osservatore delle realtà dell'est europeo, dei paesi dell'est europeo, intorno ai quali ha pubblicato tra l'altro già due reportage, uno sul Kosovo se non sbaglio e un altro invece più complessivo sulle realtà dei paesi dell'ex blocco sovietico. Che sono libri reportage, grazie per la correzione. Allora, con te andiamo ad affrontare un tema di cronaca, ma ovviamente cerchiamo di fare anche una, avendo l'opportunità di parlare appunto con chi di queste cose se ne occupa in maniera abbastanza continua, anche un piccolo quadro di quella che è la situazione serba in seguito a l'ennesimo, tra l'altro, gay pride ostacolato da nazionalisti e appunto quell'eterogenea galassia di tradizionalisti ortodossi nazionalisti che in Serbia ha un certo seguito, una certa virulenza. Io ti lascio la parola anche perché rispetto ad altre realtà, in realtà la Serbia l'abbiamo sempre seguita molto poco e quindi ne sappiamo anche molto poco. Quindi appunto chiedendoti anche di tenere un po' la barra su quanto accaduto sabato, però cercare di fare anche un quadro il più possibile complessivo della situazione. Ma sì, guarda, di cronaca forse se ne è già parlato e finalmente anche i giornali italiani si sono ricordati che i Balcani esistono, cosa che normalmente tendono a scordare, quindi direi che insomma penso che anche gli ascoltatori siano abbastanza a conoscenza di quanto è successo nel weekend a Belgrado, dove si è tenuta finalmente la prima il primo Gay Pride. Erano anni che si cercava di organizzarlo ed era anni che falliva appunto la manifestazione, perché boicottata, perché minacciata, eccetera eccetera. Questa volta si è tenuta e abbiamo visto che gli esponenti di quella che tu giustamente chiamavi l'eterogenea galassia sciovinista nazionalista hanno messo a ferro fuoco la città, assaltando per giunta anche le sedi del Partito Socialista, che fu di Milosevic, che attualmente coabita al governo, e del Partito Democratico Serbo del Presidente della Repubblica Boris Tadic, che è il principale membro della coalizione governativa. Io quello che vorrei dire è che cioè questi fenomeni di omofobia e macismo e di intolleranza non è che arrivano come fulmini a cielo sereno nel quadrante balcanico, è da circa 20 anni, da quando sono iniziate e poi anche dopo che sono finite le guerre, che il panorama politico è contaminato da episodi di intolleranza. Questo secondo me ha un'origine anche un po', chiamiamola, culturale, antropologica, nel senso che come in molti precedenti mondiali, queste giovani patrie, perché sono giovani come stati, tendono in maniera un po' virulenta a costruire la loro identità nazionale sul concetto di contro, cioè quindi contro le differenze, contro le minoranze, lo si è visto per esempio nel caso del Kosovo oppure in Bosnia, contro l'omosessualità, contro il dialogo, contro la diversità. Questa appunto è una caratteristica tipica dei paesi in transizione e che contamina appunto i Balcani e pure la Serbia. Io però sono sempre abbastanza fiducioso e tendo a sperare che man mano che questi paesi si avvicineranno all'Europa, sempre che l'Europa li voglia fare avvicinare, perché qui potremmo aprire un'ampia parentesi sul fatto che i paesi dell'Unione Europea, quando si parla di Balcani, tendono a ad avere pregiudizi e a voltarsi dall'altra parte, dicevo, più si avvicineranno all'Europa, più miglioreranno. E comunque nel panorama generale, considerando quello che è successo, cosa molto brutta, c'è anche da dire che c'è stato un risultato positivo, che finalmente a Belgrado si è tenuto il Gay Pride, volendo insomma considerare entrambe le facce della medaglia. Poi si potrebbe aggiungere qualcosa, ad esempio sui giovani. Mi sentite? Sì, sì, no, tra l'altro, infatti ci chiedevamo se magari potevamo anche intervenire per chiederti alcune cose anche un po' più mirate. Certo. In particolare, a parte questa questione dei giovani, la cultura giovanile, perché una delle cose che ci ha lasciato piuttosto, insomma, anche ovviamente scossi è il fatto che buona parte della partecipazione anche agli incidenti, quindi diciamo, a questa sommossa omofoba, sono molto giovani. Sì, qui bisogna aprire un discorso. La cosa particolare, che però non deve stupire, poi vi dirò perché, la cosa particolare è che le fila del nazionalismo sono, cioè i giovani sono il bastione del nazionalismo in Serbia, e in molti casi spesso sono addirittura più radicali e intransigenti di coloro che per esempio aderirono all'ideale della Grande Serbia, quindi alle campagne di Milosevic, fecero la guerra in nome dell'odio etnico, fomentarono l'intolleranza nei confronti degli albanesi del Kosovo oppure dei musulmani della Bosnia. I giovani in alcuni casi sono addirittura più radicali, ma questo sì, cioè non è solo colpa dei giovani, è colpa della particolare situazione che ha scontato la Serbia diciamo dalla fine della guerra. E che cosa è successo di fatto? Di fatto è successo che la Serbia, come tutti gli altri dei paesi dei Balcani, è diventato un paese autarchico, chiuso in se stesso e isolato, e questo è dipeso primo dall'eredità e dai retaggi dei conflitti, quindi dall'odio nei confronti dell'altro. Secondo, è dipeso dal fatto che l'Unione Europea, ad esempio, ha contribuito a creare questo ghetto, cioè non è solo la Serbia, diciamo, che ha isolato i giovani, no? La parte giovanile della propria popolazione, è anche l'Europa che fino all'anno scorso, questo bisogna sottolinearlo, ha negato la concessione di visti turistici a serbi, a montenegrini, a macedoni, a bosniaci. Allora, capite che se uno non può viaggiare, perché per viaggiare poi dovevano sganciare un sacco di soldi e insomma fare una trafila burocratica inenarrabile, soldi per pagare i visti ovviamente, se uno non può viaggiare, se uno vive sempre all'interno di confini limitati con questa cultura dell'intolleranza eccetera, cioè per un processo diciamo di osmosi assimila queste idee e le radicalizza, e poi insomma. Ecco, fondamentalmente è questo, che i giovani sono vissuti in un ghetto e quindi hanno sviluppato una forma di pensiero, delle pratiche sociali, politiche e culturali, direi anche molto retrograde. Però non è solo colpa loro, in una certa misura non vanno così stigmatizzati, vanno anche compresi. L'anno scorso l'Europa ha liberalizzato il regime dei visti e la mia speranza è che venendo un po' più a contatto con l'Europa, che comunque non è il migliore dei mondi possibili, dobbiamo dire pure questo, però magari ci sarà una tendenza a sviluppare una forma di pensiero e di azione politica un po' più moderata. Ecco. Senti, me invece... E poi l'ultima cosa, scusa, che dimmi, mi premeva... Di sottolineare che comunque non bisogna mai generalizzare, nel senso che in Serbia esistono anche molti giovani liberali, progressisti, tolleranti, ed esistono anche all'interno dell'emiciclo politico delle forze o dei parlamentari che non è che siano schiacciati su queste posizioni, insomma. Sì, invece quello che a me mi viene da chiederti, anche rispetto a quanto accennavi prima, è quanto ha pesato la guerra sia nello sviluppo in qualche modo di questa retorica e di questo sentimento nazionalista all'interno appunto della gioventù serba, sia proprio eventualmente nella partecipazione stessa di individui, organizzazioni o quant'altro, magari alle milizie durante la guerra civile e che poi in qualche modo che cosa ne rimane, perché poi sappiamo come interi appunto gruppi magari adesso penso addirittura a gruppi ultras o gruppi di destra radicale poi abbiano partecipato appunto alla guerra e poi siano stati in qualche modo riconvertiti in organizzazioni politiche, no? Sì, no, ma cioè, come ogni guerra, la guerra pesa e anche lì in Serbia cioè, c'ha avuto un impatto e c'ha tuttora un impatto nella fase di transizione devastante sotto certi aspetti. Ovviamente cioè, quella è una cultura che non è che sia stata rimossa, cioè, anche per dire, faccio un esempio, a livello di situazione politica, il Partito Democratico di Boris Tadic è un partito che fondamentalmente si ritiene progressista, liberale ed europeista, però c'è anche da sottolineare che uno dei principali, se non il principale consigliere di Boris Tadic è Dobrisa Kosic, che è uno di quei personaggi che al tempo, diciamo, dell'epoca di Milosevic forgiò il concetto di Grande Serbia, per cui insomma. La Serbia continua a oscillare, no? Cioè, tra un'apertura all'Europa, un'apertura al futuro e una tendenza anche al passato, cioè il demone della guerra, il demone dell'ostilità nei confronti degli altri non è che sia stato scacciato, quindi in una situazione di un equilibrio un po' precario è logico che diciamo, il culto della guerra e l'eredità di guerra persistano ancora e condizionino diciamo lo sviluppo di questo paese frenandolo, però anche qui io, come dicevo prima, tendo a essere sempre fiducioso. Negli ultimi tempi in Serbia e nei Balcani ci sono stati degli sviluppi importanti. Faccio solamente due esempi. Boris Tadic quest'anno è stato a Srebrenica per le commemorazioni del 15° anniversario dell'eccidio. E questo è stato un gesto che nessun leader serbo aveva mai fatto. E poi sempre nell'ultimo periodo c'è da registrare che Croazia e Serbia, cioè i nemici di sempre, cioè che sono ovviamente i due, chiamiamoli, paesi forti dei Balcani, quelli che all'epoca della guerra di Bosnia si misero d'accordo per spartirsi la Bosnia, come fecero Hitler e Stalin al tempo della Seconda Guerra Mondiale con la Polonia, insomma. E ultimamente stanno dialogando e praticamente, anche se forse con un po' troppa retorica, dicono che vorrebbero fare come hanno fatto Francia e Germania in Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Forse è un po' troppo, però c'è una tendenza all'apertura, alla dischiusura di un orizzonte migliore, insomma. Fermo restando che appunto la cultura della guerra e dell'odio ancora condiziona queste società. Ora, l'ultima domanda invece volevamo farti rispetto per esempio al rapporto con la Chiesa ortodossa. Da questi microfoni spesso seguiamo le vicende russe con Mosca, abbiamo un ponte diretto, abbiamo possibilità di seguire con molta attenzione quello che accade, che in realtà è una condizione piuttosto simile, anche qui stiamo parlando di giovani patrie, comunque di costruzioni recenti di uno spirito nazionale e di ovviamente quindi con fondamenta particolarmente anche fresche, tra cui anche la tradizione ortodossa. Tra le foto che sono circolate in Italia, ad esempio, c'è quella di un prete ortodosso che arringa questa folla di giovani con croci e quant'altro. Qual è il rapporto, per esempio, in Russia? La questione è legata strettamente anche al rapporto che si è creato fra Russia Unita e i vertici della Chiesa ortodossa, per cui in qualche maniera c'è un reciproco sostegno delle nuove basi nazionali putiniane. Ma guarda, Chiedevo un punto, questo rapporto politico, il ruolo politico della Chiesa ortodossa in Serbia a questo punto, oltre che appunto sul ruolo specifico. allora, da un certo punto di vista, parlando comunque di universo ortodosso, di universo slavo, c'è innanzitutto una similitudine con quanto accade in Russia, dove diciamo, c'è stata una grossa riscoperta del patrimonio e della cultura ortodossa una volta che si è dissolto diciamo, il mondo sovietico, e anche lì nell'ex Jugoslavia, quindi in Serbia, che è uno dei paesi ortodossi dell'ex Jugoslavia insieme alla Macedonia e al Montenegro, c'è stata una tendenza simile, cioè che la Chiesa è rivenuta fuori, diciamo, dopo il periodo titino, e ha rivendicato spazio nell'agone politico e sociale, spazio che gli è stato consentito ovviamente, anche perché, come tu dicevi, si trattava di ricostruire la patria, quindi si è instaurato questo rapporto tra potere politico e potere religioso, che è un rapporto anche di, cioè il punto è che la politica usa la religione come forma di legittimazione, e questa ha una valenza sia politica sia culturale, cioè che è proprio del mondo ortodosso. Poi c'è da sottolineare che sì, cioè ci sono dei segmenti della Chiesa in tutto l'est europeo, non solo in Serbia, penso alla Polonia per esempio, no? All'esperienza di Radio Maria, alla propaganda estremista di alcuni settori del clero cattolico. Tornando alla Serbia, sì, c'è sicuramente una tendenza da parte di alcuni segmenti della Chiesa a farsi portatori di un pensiero estremista, radicale e pure un po' fascista, però secondo me questo dipende anche, sicuramente è una radicalizzazione, è un'estremizzazione, però dipende anche dal fatto che come tutti i cleri, anche quello serbo vive in una condizione, chiamiamola agonica, no? Cioè nel senso che anche la secolarizzazione lì si fa fortunatamente largo e si fa strada, questo porta alla perdita di fedeli, al drenaggio di fedeli e anche un po' alla perdita di peso nella società da parte delle gerarchie ortodosse, e per riconquistarlo appunto si rendono protagoniste di queste menate omofobe e totalmente intolleranti. E questa è un po' la situazione. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure se possiamo risentirci, magari se va anche a te, insomma, quando arriveranno magari anche altre notizie o avremo voglia di fare anche altri approfondimenti sui Balcani. Come no, io direi che no, di aggiungere non avrei altro, insomma abbiamo toccato un po' i temi, ovviamente ce ne sarebbero tantissimi altri da toccare per quanto riguarda l'orizzonte balcanico, magari facciamo una seconda puntata, no? Assolutamente, guarda. Allora direi di risentirci prossimamente, intanto ti ringraziamo per questo esauriente contributo. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Sulle note degli Angelic Upstarts, antinazi, protagonisti di un live veramente, veramente notevole sabato scorso in quel di Strike. Ne approfittiamo della pausa per un paio di saluti. Il primo ad Apostasia, che ci ha mandato qualche giorno fa i complimenti per la trasmissione. Ovviamente ricambiamo, appena ricomincerà avremo modo anche di riascoltarlo da questi microfoni. E l'altro estremamente sentito è per un amichetto che in questo momento si trova dietro le sbarre di Re Bibbia, ovviamente non solo per lui ma per tutti e tutte coloro che stanno condividendo con lui la condizione di detenuto. È un saluto e un abbraccio forte ad Albertino. E sappiamo essere un ascoltatore accanito di queste frequenze. Allora, è proprio così, sulle note finali di Antinazzi, che andiamo a voltare pagina e dovremmo già essere in collegamento telefonico con l'ultimo dei nostri contributi di oggi. Intanto verifichiamo se ci senti. Eccomi qui, buongiorno. Buongiorno anche a te. Allora, con te andiamo a parlare, ormai è diventato un po' un appuntamento fisso nel corso di quest'ultimo anno, in qualche modo, andare a parlare delle elezioni che si svolgono di volta in volta nei vari paesi europei, poiché appunto abbiamo visto come in più o meno tutto dal nord Europa all'est poi crescono movimenti xenofobi che in qualche modo si affermano poi anche durante le tornate elettorali. Questa volta è il turno di Vienna, appunto siamo all'indomani delle amministrative in Austria, ed è anche un po' una doccia fredda rispetto al solito, poiché Vienna a parte il nomignolo di Vienna la Rossa, era la città che anche in qualche modo durante l'epopea di Haider eccetera eccetera, la città che si era anche un po' distinta per le manifestazioni di protesta contro il appunto l'allora governatore della Carinzia e quant'altro, e invece ci troviamo con un risultato degli eredi in qualche modo di quell'esperienza, il cosiddetto Partito della Libertà, con il 27% dei voti, giusto? Sì, i dati sembrano anche superiori, insomma, si parla anche del 28%, con quartieri, alcune zone, in particolare quelle popolari, dove il risultato è stato anche più forte. Sì, quindi io ti chiederei un po' di andarci a raccontare come è stato possibile, cosa è cambiato in Austria, come è cresciuto questo Partito della Libertà, che tra l'altro, se non sbaglio, non è il partito di Haider, giusto? Ma questo è, diciamo, il partito originario in qualche modo di Haider, cioè il partito liberale, da cui i sostenitori diretti, diciamo, di Jörg Haider si sono in realtà separati alcuni anni fa per formare una nuova formazione che però, diciamo, a parte qualche risultato locale, non si è affermata in modo così forte. Questo è il vecchio partito liberale, il PoE appunto austriaco, che diciamo Haider aveva saputo trasformare negli anni 90 da coacervo di vecchi volontari del fronte dell'est, ex SS, diciamo l'apparato politico nazionalsocialista che aveva favorito l'Anschluss, l'annessione con la Germania nazista, e poi quanto di neonazista o di, diciamo, anti-immigrati, in particolare anti-slavi, era cresciuto nel paese nel dopoguerra. Haider negli anni 90 aveva trasformato questo partito in un blocco anti-immigrati e aveva ottenuto dei risultati appunto sorprendenti. Questo partito è oggi in mano a questo nuovo figura che si chiama Heinz Christian Strache, che è un po' sul modello di Haider, uomo belloccio di mezza età con, diciamo, il modello, se vogliamo, haideriano del vincente in qualche modo, che ha incarnato appunto negli ultimi anni, dopo la scomparsa di Haider, l'anima xenofoba del partito. C'è in realtà da fare una precisazione però in questa storia, che fu proprio a Vienna, fu proprio nei quartieri popolari di Vienna, fu proprio in particolare sul tema dell'assegnazione degli alloggi sociali, quelli che da noi sono le case dello IACP, che nel 96 il partito liberale di Jörg Haider ebbe una notevole affermazione, segnalando, ed è questo diciamo un po' il paradosso di questa stagione, che si parla molto di populismo, di ritorno della estrema destra xenofoba, ma in realtà, se ben guardiamo, non siamo all'origine del problema, siamo alla seconda ondata. La prima c'è stata a metà degli anni 90 con la Lega Nord in Italia, il Front Nazionale in Francia, la radicalizzazione del nazionalismo fiammingo nelle Fiandre e appunto con l'emersione, l'emergere di personaggi come Haider. Oggi in Austria, a Vienna in particolare, oggi siamo alla seconda ondata, come a dire, questa forse è la lezione più importante, che quello che sembrava un epifenomeno, che segnalava cioè una crisi elettorale, la crisi dei vecchi partiti, lo spostamento di ceti, il diciamo divenire l'immigrazione uno dei grandi temi su cui si giocavano, si vincevano e si perdevano le elezioni nelle democrazie occidentali, bene, che tutti questi fenomeni si sono stabilizzati e non sono più appunto fenomeni di passaggio occasionali, ma segnalano diciamo il clima stesso delle società europee. Come si è arrivati quindi a oltre 15 anni di distanza e malgrado la scomparsa di Haider a toccare per questo partito xenofobo quasi il 30% nei quartieri, soprattutto della cintura rossa e operaia di Vienna? Dobbiamo immaginare che Vienna è un po' una sorta di museo vivente della storia della socialdemocrazia, che lì insieme a Berlino ha mosso alcuni dei suoi primi passi. A Vienna ci sono ancora musei che raccontano la storia sindacale, musei che raccontano la storia del movimento socialdemocratico, cioè è veramente un emblema di quello che nel mondo di lingua tedesca ha rappresentato la sinistra per appunto il movimento operaio, eccetera. Che cosa è accaduto? È accaduto appunto che progressivamente, già a metà degli anni 90 e poi confermandosi lungo tutto questo decennio, sui temi diciamo della politica sociale ha avuto la meglio l'allarme di carattere xenofobo. Si era cominciato a parlare delle case popolari 10 anni fa, si è continuato parlando ancora una volta di case popolari, parlando di asili nido, e poi via via diciamo i temi centrali della campagna elettorale sono diventati quelli della politica di asilo, della politica di apertura, cioè non soltanto agli immigrati ma anche a coloro, è il caso dei kosovari ad esempio, fuggiti da realtà in conflitto, in guerra, che affluiscono nel paese. L'Austria, un po' meno di quanto si è abitualmente detto dell'Olanda, ha avuto però una tradizione di accoglienza, è un paese che anche per in qualche modo risarcire politicamente, culturalmente, quanto aveva fatto insieme alla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, si è trasformata un po' in una patria dei diritti dell'uomo e anche in un paese in cui sono affluiti molti immigrati e molti rifugiati politici fin dagli anni 50. Tutto questo, con l'avvento della crisi, come dire, è stato agitato dalla destra xenofoba come un problema sociale. Diciamo il leitmotiv è sempre lo stesso: pesano sulle nostre tasche, pesano sulle nostre tasse, non possiamo accollarci tutta la miseria del mondo e via dicendo. Il vero problema è che nel frattempo, cioè tra il risultato del Partito Liberale del 96 e quello del 2010, c'è stato di tutto, cioè c'è stata la presenza del partito di Haider al governo insieme alla Democrazia Cristiana, che in Austria si chiama Partito Popolare Austriaco, c'è stata la morte di Haider, c'è stata come dire la denuncia dell'haiderismo come vi ricorderete il modello del populismo alpino, il ritorno dei fantasmi del passato, insomma se ne è parlato molto. Non se n'è però apparentemente parlato abbastanza, perché una parte dell'elettorato di questa città, Vienna è una grande città, forse è un po' difficile definirla una vera e propria metropoli, visto che è una città tutto sommato un po' sonnacchiosa, anche se appunto una città stipata diciamo di abitanti, sono riusciti a farsi sedurre nuovamente dalle sirene della destra radicale. Il vero problema è che appunto si è provato un po' di tutto. In una prima fase, i socialdemocratici a metà degli anni 90 alzarono un cordone sanitario, tenendo fuori da qualunque spazio pubblico, da qualunque coalizione il partito di Haider. In seguito i popolari cercarono di allearsi, portarono Haider al governo immaginando di poter esorcizzare, diciamo, quanto diceva l'estrema destra, cercando in qualche modo, come sta facendo Sarkozy in Francia, di pescare su quell'elettorato, sui temi di quell'elettorato. Tra l'altro, nella campagna elettorale delle ultime settimane a Vienna i democristiani che sono al governo si erano segnalati proprio per acuire le loro posizioni nei confronti degli immigrati, in modo in qualche modo da segnalare all'elettorato che loro non avevano nulla da invidiare quanto a durezza contro gli stranieri al partito di Haider. Bene, si è provato un po' a far tutto, l'esito è che comunque quasi il 30% dei cittadini di Vienna, siamo al 20-25% sul piano nazionale per il partito di Haider, con poi delle punte tradizionali in alcune regioni frontaliere, diciamo, hanno optato per questa scelta politica. Questo ripropone ancora una volta il nodo difficile da sciogliere della centralità ormai di questi temi, che possono decidere non soltanto gli equilibri locali. A Vienna è difficile pensare che a questo punto ci sarà un borgomastro eletto anche con i voti del partito xenofobo, ci sarà probabilmente una coalizione o di centrosinistra o di sinistra-sinistra, socialdemocratici e verdi piuttosto che socialdemocratici e popolari. Il punto è che quel 30% si stabilizza, cioè che ormai c'è una percentuale fissa di elettorato nei quartieri popolari di una città come Vienna che sceglie di votare per la destra radicale, dopo che di questa destra radicale si è saputo un po' tutto e quindi nessuno può più dire non sappiamo perché votiamo, sono nuovi, eccetera. Questo è un partito presente da tanti anni di cui si è scritto e detto un po' di tutto, quindi il vero problema è che c'è una parte di elettorato a Vienna, come molte città europee, che è convinto, diciamo così, dei temi, dei valori, dei simboli che questa destra xenofoba e populista agita nelle nostre società. Questo è un po' il quadro. Guarda, io ti interrompo, ti sei interrotto da solo, cosa quasi più unica che rara, per un paio di considerazioni. La prima è che da una parte in realtà Vienna è Vienna la rossa, diciamo, da dopoguerra, ma Vienna è anche stata per tanti anni il faro della cultura populista e in particolare in chiave antisemita del primo Novecento. Karl Lueger, che è stato il borgomastro fino al 1910 della città, è considerato ormai in maniera piuttosto condivisa in qualche maniera il padrino politico del nazionalsocialismo tedesco, in quanto Hitler visse tra l'altro a Vienna proprio negli anni del governo di Lueger. Ora, questa è preistoria, però lo dico perché ultimamente, tra l'altro è l'ultimo collegamento che facemmo sempre con te rispetto all'Austria, ultimamente hanno riassunto una grossa visibilità quelle organizzazioni di tipo elitistico come la Wiener Corporationsrings, WKR, che annualmente organizzano degli appuntamenti un po' a metà fra il massonico e il revival asburgico, tra l'altro con contiguità fortissime, tant'è che ci fu anche una mobilitazione degli antifascisti viennesi con connessioni molto forti con appunto l'FPO. Ora, di quanto tu ne possa sapere, ovviamente parlandone sempre da una distanza, però appunto seguendo queste vicende con una certa attenzione, quanto effettivamente pesa una retorica della grandeur perduta sull'Austria che si va sempre più, diciamo, avvolgendo su se stessa, xenofoba, che ormai vive un 15 anni, 20 anni di in qualche maniera di ricerca dell'autosufficienza perduta, con appunto poi essere ridotta a un paese comunque marginale dell'Europa occidentale? Ma diciamo forse se questo elemento aveva un peso all'inizio della parabola, diciamo per così dire, heideriana e oggi post-heideriana, io credo che questo elemento in realtà sia abbastanza marginale, nel senso che le confraternite studentesche, il circuito che prima magari era anche apertamente revisionista e in qualche modo si rifaceva anche ai gruppi di veterani del fronte dell'Est, in Carinzia, la regione dove Haider era nato e cresciuto, dove è stato a lungo governatore, c'è tutta una tradizione, diciamo, di valorizzazione di quella scelta pro-nazista come una cosa che legava indissolubilmente la nazione austriaca alla grande nazione di lingua tedesca, i tedeschi del sud, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi in realtà, sia per un dato squisitamente generazionale, sia perché è cambiato anche un po' il riferimento nel dibattito pubblico tedesco, continuano a caratterizzare dei pezzi della estrema destra che sono presenti all'interno del Partito Liberale come dell'altro piccolo partito formato da, diciamo, dall'ex segretario poi nei fatti di Haider. Però spiegano poco questo tipo di risultato. Il vero problema è che, come dire, un po' come è accaduto, viene da pensare all'Olanda, perché come l'Olanda, appunto, anche se veniva da una storia diversa nel Novecento, l'Austria ha seguito un percorso in qualche modo nel dopoguerra di apertura, il fatto stesso che sia diventata luogo di importanti agenzie internazionali, no? E ne caratterizza un po' il profilo. Bene, che in qualche modo la definizione del paese come porta aperta nei confronti dell'Est, cosa che ne ha fatto negli anni della Guerra Fredda, anche come un po' come Berlino, il teatro delle azioni dello spionaggio, no? Queste cose qui, bene, nel momento in cui è arrivata la crisi, più che la grandeur perduta imperiale, asburgica o addirittura grande tedesca, cioè quella dell'unione appunto con i tedeschi del nord, con quelli della Repubblica Federale, più che un problema di grandeur perduta, ci si è svegliati in qualche modo con l'idea che la porta verso l'est, invece che essere servire da valorizzazione al paese, diventasse in qualche modo un'autostrada per l'immigrazione. E questo elemento, diciamo, dalla fine dal dopo muro di Berlino, quindi in realtà dai primi anni 90, i primi successi di Haider sono di quel periodo, siamo intorno ai primi anni 90, 92-93, hanno indicato già che sarebbe stato un problema che poi si è sviluppato in altri territori. Cioè, in realtà è proprio il ruolo storico dell'Austria che, quasi in paradossale cortocircuito, è diventato il motivo conduttore della campagna degli xenofobi. Cioè, altro che Ander, ci siamo trasformati in qualche modo in un supermercato dell'est. Vienna è una capitale dei Balcani per molti versi, l'immigrazione serba, kosovara, bosniaca che affluisce nella città. Vienna è la città a cui guardano l'immigrazione dai paesi dell'est, dall'Ungheria, dalla Polonia, eccetera, eccetera. Quindi in realtà il problema è che diciamo, le promesse che questo ruolo sembrava indicare per il paese, cioè il nascere di una piccola potenza che potesse gestire in qualche modo queste nuove economie, nuova società dell'est, invece ha fatto sì che il paese diventasse il primo porto dove rifugiarsi. E questo, diciamo, negli equilibri sociali del paese, la destra xenofoba l'ha fatto ovviamente pesare, trasformando quella idea di apertura cresciuta dopo il 1945 in paura, risentimento, emergenza costante, criminalità. Una storia che ahi noi conosciamo molto bene e che ha fatto appunto proprio di Vienna, tra l'altro, che non era come le regioni frontaliere, come la Carinzia, un tempio del tradizionalismo pantedesco o delle confraternite, diciamo, neonaziste, invece una città laboratorio, non più nei tempi ristretti appunto di chi sogna ancora l'aristocrazia asburgica, ma nei quartieri popolari dove si discute, si litiga e magari si lotta per l'assegnazione di un alloggio. Va bene, ti ringraziamo come al solito, sei stato eloquente ed esauriente. Sono ormai le 13, quindi non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure se ci andiamo a salutare. Un appuntamento alla prossima settimana. Grazie, ciao.